Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Ritratto di Anita Garibaldi. Fu a Laguna nel luglio dell'839. Il generale vide Anita, anzi Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, una diciottenne orfana e povera data in sposa al calzolaio Manuel Duarte da Aguiar. Giuseppe Garibaldi, allora corsaro per la Repubblica Brasiliana ribelle del Rio Grande del Sud, scrisse in seguito che era alta, col volto ovale, i grandi occhi neri e i seni prosperosi, una bella creola, dal carattere ardente al punto da spegnere a 13 anni un sigaro sul viso di un carrettiere troppo intraprendente. Cavalcava benissimo, meglio di Garibaldi che da lei imparò, e combatteva meglio di molti maschi. Roba da romanzo, insomma. Lui le disse: devi essere mia. E furono subito una cosa sola, in amore e in guerra. Quattro figli, battaglie, fughe rocambolesche. Combatterono insieme per la Repubblica Sudamericana ribelle, poi per la Repubblica Romana. L'ultima fuga, la trafila, le fu fatale. Incinta di 5 mesi, Anita spirò tra le braccia di Garibaldi il 4 agosto 849 nelle valli di Comacchio. Riposa al Gianicolo sotto la statua equestre del suo amato. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore.